richiederebbe, quante sono le possibilità di impiego dei custodi. Noi stiamo facendo veramente dei salti mortali per aprire questi nuovi percorsi di visita. Per il direttore degli scavi archeologici, la sopravvivenza di Pompei dipenderà soprattutto da un fattore: rendere la città viva all'interno di una società viva. E c'è anche una novità degna di nota, ovvero l'inizio del restauro di due edifici tra i più importanti del sito archeologico. Abbiamo cominciato da poco il restauro alla Villa dei Misteri, forse il più emblematico degli edifici pompeiani. Tra breve finiranno i restauri alla Casa dei Vetti, almeno per la prima parte, in modo che sarà nuovamente possibile aprirle al pubblico. Insomma, ad ascoltare il direttore degli scavi di Pompei, le accuse e le lamentele mosse negli ultimi tempi sarebbero del tutto infondate, anche se non è facile gestire Pompei. D'altra parte siamo persone che, insomma, siamo votate. Chi sta qua è perché ci crede veramente. Italia in controluce. Questa invece è una storia di navi a perdere, di navi senza futuro. Le racconta a Italia in controluce Andrea Ferro. Quando la nave diventa un vuoto a perdere, che galleggia senza futuro, ci sono uomini di mare che si ritrovano spiaggiati nelle banchine dei porti. Fantasmi in carne ed ossa, abbandonati senza più una bussola che ne orienti la prospettiva. Restano avvinghiati alla nave agonizzante come unica risorsa di vita e di riconoscimento. Spesso, se sbarcano, diventano automaticamente clandestini e perdono così ogni diritto. Il fenomeno si è accentuato dal 2008, quando la crisi del trasporto marittimo ha contratto i noli. In Italia, queste esistenze alla deriva trovano aiuto e conforto grazie ai sacerdoti e ai volontari della Stella Maris, attivi in tutti i porti. Don Giacomo Martino è il direttore nazionale. Spesso le navi vengono fermate dalle capitanerie per giusti controlli, sono le cosiddette carrette del mare. La capitaneria richiede che vengano fatti dei lavori che, superando di gran lunga tutti i debiti che l'armatore nel frattempo si è fatto, fa sì che l'armatore fisicamente scompaia. Cioè il comandante chiama, arriva nel porto, chiama l'armatore, non risponde a nessuno. Quindi queste persone si trovano lì, l'agente nave, che di solito è quello che provvede alle necessità dell'equipaggio, si trova nella difficoltà di fornire cibo, bunker, cioè acqua e petrolio per far andare il minimo delle cose necessarie per far andare avanti la nave, dalla pompa dell'acqua per lavarsi ai frigoriferi, eccetera. Quindi, non avendo soldi, scappano tutti e i marittimi rimangono lì a bordo e senza queste cose che sono essenziali per un minimo di vita dignitosa. Si calcola che in tutto il mondo ogni anno siano una cinquantina le navi abbandonate nei porti con i loro equipaggi stremati dall'incertezza, confinati in una prigione galleggiante, privati della possibilità di tornare dalle loro famiglie, improvvisamente inutili. Ma quanto può durare questo esilio? Tempo fa durava dai 2 ai 4 anni. Da 3 anni ormai, con l'intervento un po' di tutte le forze, in modo particolare con una piccolissima quota dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, riusciamo a rimandarli a casa. Io non sono molto fiero di questa cosa qua, è bello che si spenda l'8 per mille per questo. La cosa che non mi piace è che ci si debba pensare in modo straordinario attraverso un'istituzione religiosa invece che uno Stato che si dovrebbe accollare questo minimo di responsabilità verso questi lavoratori del mare. E ci vuole l'avvocato, perché poi bisogna parlare con tutti gli altri creditori, perché non solo i marittimi magari non sono stati pagati da mesi, ma ci sono altre figure come, che so, giusto il fornitore del bunker. E quindi la vera difficoltà, direi, è proprio quella di poi andarli a casa, cioè fisicamente, finite, espletate tutte queste pratiche, tirar fuori i soldini per il biglietto aereo e qualche cosettina, perché se uno torna dopo 10 mesi a casa che non prende la paga, la famiglia si è indebitata e torna lì senza un euro, c'è il rischio che poi si prenda anche delle botte dai debitori. Storie di mare, di affetti spezzati, di disperazione e di rabbia, ma anche storie di vita e di speranza. In una nave che trasportava cemento e quindi col carico a bordo, quindi questo cemento che ormai si era attaccato alla lamiera, a bordo erano rimasti più solo il comandante e sua moglie che era stata imbarcata, così come mozzo, ma con la scusa di poter stare un po' vicino a suo marito, perché questo era un turco, hanno contratti che vanno da 8 a 12 mesi. Insomma, il giorno prima di partire la moglie sta male, la portiamo di corsa all'ospedale, sta male, cosa succede? E alla fine hanno scoperto che la signora era incinta e ci hanno raccontato che loro da anni provavano ad avere un figlio e non c'erano mai riusciti. Allora, così è stata la bella sorpresa, e un po' poeticamente abbiamo detto, ecco, anche nel cemento, no, può nascere un fiore, ecco, come dire, anche in queste situazioni che sono gravi e che così succedono nei nostri porti italiani, non succedono nei paesi del quarto o quinto mondo, così c'è ancora un segno di speranza, c'è ancora la possibilità di sorridere. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Tutte le puntate le potete riascoltare e scaricare dal nostro sito radio24.it. Per comunicare con noi, Radio 24, Italia in Controluce su Facebook, In Controluce tutto attaccato su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Alle 6:30 torna la mia voce, naturalmente, su Radio 24.